la democrazia ci sono pericoli? Sì, che ci sono, altro che. In parte la nostra democrazia si è già involuta, però attenzione, la storia non si ripete mai uguale, c'è sempre fantasia. Per cui il pericolo che noi abbiamo vissuto in questi anni e l'involuzione democratica di questi anni non si è manifestata tanto in termini di governo militare o in camicia nera. No, è stato per esempio il controllo dei mass media, la concentrazione editoriale, il come il mercato della notizia sia stato drogato e artefatto. Oppure, per esempio, io ritengo un vero e proprio colpo di Stato quello che è avvenuto, e qui già comincio a rispondere sulla questione di Tangentopoli, quello che è avvenuto il 18 aprile del 1993 con l'abolizione della proporzionale e il passaggio al sistema maggioritario, che ha rappresentato il maggior colpo alla nostra democrazia riuscito dalla guerra in poi. E infatti l'esito che c'è stato è stata la formazione di una democrazia di tipo cesaristico, molto personalizzato, con il ruolo del capo. Io ho sentito ultimamente il discorso di Berlusconi, no? Che parlava di il mio popolo, se la sinistra avesse un capo che avesse un suo popolo. Perché ormai il popolo è diventato una proprietà privata di un qualche capo. E la cosa tragica è che le stesse cose che dice Berlusconi dicono anche gli altri. Questo modello della democrazia come il capo carismatico, come Mosè che porta il popolo a attraversare il Mar Rosso. Ora, a parte il fatto che sia Berlusconi che Franceschini o Veltroni non hanno la statura di Mosè, non hanno le physique du rôle, ma soprattutto, diceva Brecht, è sfortunato il popolo che ha bisogno di eroi, vuol dire che nei guai. Io penso che sia stata questa già una grave involuzione della nostra democrazia. Ci sono ulteriori pericoli? Sì, io temo che la crisi che avanza, che ci sta investendo, creerà le premesse per situazioni molto difficili. C'è un bel libro che è uscito ultimamente di Giorgio Galli in cui spiega il perché il futuro probabilmente vedrà un ruolo crescente dei militari. Io credo di stati maggiori misti fra militari, finanzieri e politici. Ci sono delle tendenze non solo italiane molto preoccupanti.